Ciao, io sono Laura Voltolina e questa newsletter è Piccole Gentilezze. Se mi leggi o ascolti abitualmente, potresti ricordarti che la settimana scorsa ti ho parlato di sincerità. La sincerità è alla base di molte cose bellissime, compresa la gentilezza. Ma come ci si arriva alla sincerità? Quella autentica, intendo, non semplicemente il non si dicono le bugie, che no, non si dicono perché fanno male a tutti, iniziando da chi le dice. Se ci pensi, la sincerità è fondata sull'ascolto di sé. È solo così che puoi sentire cosa ti fa sì e cosa ti fa no. È in quel momento che sai qual è la direzione vera, hai la tua sincerità e quindi la gentilezza verso di te e verso le altre persone. Le due cose non sono affatto diverse come potresti credere. Ecco un piccolo esercizio per abbracciare la tua sincerità. Silenzia il cellulare e isolati per 3 minuti dalle richieste del mondo. È un duro colpo per il nostro ego, ma il mondo sopravvive benissimo anche se per 3 minuti noi ci dedichiamo a noi stessi. Dico sul serio. In qualunque posizione tu sia, in piedi o a sedere, ad esempio, porta una mano a scelta sulla spalla opposta. Poggia la mano libera sotto l'ascella opposta. Ti stai abbracciando, sì? Ora china un pochino la testa in avanti, chiudendo gli occhi dolcemente. Respira con tranquillità. Chiediti, cosa mi serve davvero adesso? Ascolta le sensazioni che emergono. Ti sono note? Sono nuove? Cosa ti dicono di quello che davvero ti serve? A volte crediamo ci serva un bagno caldo e invece emerge che ci serve davvero una passeggiata all'aria aperta. Per quanto riguarda me, lo strumento più efficace per esplorare la mia natura autentica, il mio scopo nel mondo e i miei sogni più veri è sempre stato lo yoga. E nei percorsi insieme a me invito sempre ad avere curiosità per ciò che senti e per come lo senti, nelle posizioni, nei movimenti, nelle respirazioni, nelle visualizzazioni, nei racconti. Ecco le occasioni per praticare insieme online. Il fascino degli dèi, yoga e mitologia. Puoi seguire le dirette nei giovedì di novembre dalle 19.30 alle 21 oppure attraverso le registrazioni che restano a disposizione per una settimana almeno. In realtà i link dei primi due appuntamenti, non è Pollon e non è Bollywood, sono ancora disponibili, quindi sei in tempo per unirti alla nostra esplorazione per intero, ma puoi seguire anche un solo incontro se ti interessa. Stasera tocca a trasformarsi, non sono gli Avengers. Che storia ti racconterò? Perché non sono gli Avengers con buona pace della Marvel? E soprattutto, in che modo scoprire i miti nel corpo ci conduce a cambiare onorando noi stessi? Scrivimi per scoprirlo. Possiamo andare nella direzione di noi stessi anche imparando a onorare il lunedì, che è il giorno della luna, simbolicamente della coscienza. E infatti è il giorno in cui si imposta la settimana. Lo odiano tutti, o quasi. Un primo passo per abbracciare noi stessi con gentilezza è proprio imparare ad abbracciare il lunedì insieme alla nostra capacità di scegliere, ovvero il nostro potere, che non è il potere corrotto e mondano del voler disporre di cose o persone. È il potere sano e funzionale di scoprirsi capace di disporre dei nostri pensieri, delle nostre energie, della nostra gentilezza. Questo è yoga del potere, prendersi il lunedì. In diretta, indovina? Sì, ogni lunedì dalle 19.30 alle 21 e con le registrazioni a disposizione per una settimana. Vuoi provare una lezione aperta online di yoga del potere? Segnati la data, martedì 6 dicembre 19.30 20.30. Sì, è di martedì perché il lunedì c'è la diretta del percorso vero e proprio. Questo incontro speciale è organizzato insieme a Roberta di Woman and the City. Come sempre, il numero di posti disponibili è limitato. Per partecipare, intanto segna la data in agenda, martedì 6 dicembre 19:30, 20:30. Rispondimi a questa mail così ti inserisco nell'elenco delle persone che riceveranno il link. E poi seguimi sui social che te lo ricordo anche io. Le parole che ho scelto per noi oggi sono di Mark Walsh, dal suo Embodiment, Moving Beyond Mindfulness, ovvero Embodiment, il movimento oltre la mindfulness. Stiamo sempre praticando, che ne siamo consapevoli oppure no. Nel tempo possiamo imparare a incarnare nuovi modi di essere attraverso un progetto intelligente. Un grande abbraccio, gentile e intelligente. Laura.